il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Conclusa la vendemmia 2015, siamo ormai quasi a Natale e si cominciano a tirare le fila dell'annata vinicola. Oggi però, più che di questo, il quadrifoglio vorremmo avere alcuni consigli su come avvicinarci al vino in modo corretto in previsione, in particolar modo, del Natale. Cosa acquistare e perché? Quanto spendere? Scegliere dei vini bianchi o dei vini rossi? Bollicine o no? Quando e come? Ecco, per tutto questo abbiamo pensato di chiedere e di avere come ospite un giovane produttore, nonché enologo, Alberto Bellucco, della cantina La Roccola di Cinto Euganeo. Una cantina in particolare che fa tutto in casa, perché si parte dalla coltivazione delle viti fino alla spumantizzazione e all'imbottigliamento. Chi meglio di loro? E quindi benvenuto Alberto. Buongiorno a tutti, grazie di avermi contattato. Ecco, la prima cosa, com'è andata l'annata di quest'anno? La vendemmia 2015 è stata un'annata come poche, per una qualità superiore che abbiamo visto da un'estate calda e anche con delle buone piogge, ma anche a livello proprio della raccolta. C'è stato un bel clima, un buon tempo che ci ha permesso di portare a termine velocemente una vendemmia. Ecco, per capire, voi siete nei Colli Euganei, nella zona di Cinto Euganeo, tra l'altro un'azienda storica che esiste da oltre 30 anni, ma lì si faceva vino da ben prima. Sì, la nostra famiglia coltiva la vite ormai da 100 anni, prima come mezzadri e dopo siamo diventati noi per primi produttori diretti. Quindi una storia che va dall'inizio un po' della coltivazione della vite un po' nel Veneto. Sappiamo che nell'Ottocento con la fillossera c'è stato un po' un taglio, da subito dopo di fatto avete iniziato voi, però nei Colli Euganei si coltivava vino fin dalle epoche antiche, già negli antichi romani si parlava di viti sui Colli Euganei. Sì, noi abbiamo ancora segni nella nostra viticoltura e nelle nostre tradizioni del vino in epoca romana. Molti dei nomi dei nostri vini anche derivano ancora, sono stati dati dagli antichi romani. Rossi o bianchi nei Colli Euganei? Tutte e due, abbiamo un territorio che si estende per un 70 km di diametro ed è impensabile che sia vogato per una sola tipologia di vino, bensì diverse tipologie, i bianchi fermi, i bianchi spumanti, i rossi leggeri e anche i rossi di struttura. Chiedevo questo perché cominciamo ad entrare anche sulle idee di che cosa consumare a Natale e di cosa abbinare. Sicuramente rossi e bianchi. Siamo tra novembre e dicembre, è ancora il periodo del vino novello. Se ne parla sempre di meno. Viene ancora fatto, ovviamente. A dicembre, a Natale, si può ancora consumare e come utilizzarlo? Allora, sicuramente il novello a dicembre si può ancora consumare. Vorrei solo aprire una piccola parentesi, in quanto il vino novello non smette di essere bevibile a novembre, ma bensì può essere bevuto per un anno tranquillamente, perché è un vino rosso raccolto giovane, prodotto giovane, ma che ha comunque un potere di mantenersi nel tempo, per cui assolutamente in questo periodo, se si vuole anche tastare il polso di come è andata l'annata, il vino novello è sicuramente un vino che ci dà l'idea di come saranno anche dopo, in un futuro, i rossi di quest'annata. Però il vino novello non è proprio un vino classico, ha un sistema diverso di produzione. Sì, il vino novello è particolare perché si va a lavorare in macerazione carbonica. Molto semplicemente si va a raccogliere l'uva intera, metterla all'interno di una vasca e fare in modo che questa vasca venga saturata di anidride carbonica. Questo permette che la fermentazione, al posto di svilupparsi all'interno del mosto, si sviluppa all'interno dell'acino e va ad estrarre delle caratteristiche nobilissime dalla buccia e dall'acino, che lo rende proprio questa sensazione molto fruttata, molto giovane, che è irripetibile con altre tecniche più tradizionali. Ecco, questa sensazione di morbidezza mi fa pensare che oggi rispetto a forse qualche tempo fa si sta di nuovo cercando dei vini che siano più tranquilli e che esprimano molto più il fruttato, diciamo, e la semplicità, e meno magari il legno, le sensazioni un po' forti. Qualche anno fa si andava un po' invece in quella direzione. Molto probabilmente il vino sta seguendo la stessa natura nostra. Siamo sempre più frenetici e per cui anche il vino si sta adattando a noi, dandoci vini sempre più giovani e sempre più semplici anche per noi da capire. Ecco, quindi siamo arrivati al pranzo natalizio, all'antipasto o all'aperitivo. Un vino semplice, fruttato, classico, è il Prosecco, che nei Colli Ugani si chiama Serprino. Sì, il vitigno Glera nei Colli Ugani prende la denominazione Serprino, è uno dei due vini più importanti che si fanno nelle nostre zone e sicuramente è un vino che sta cominciando ad essere apprezzato lì dove magari ci sono zone che sui spumanti sono ancora più forti di noi. Un vino semplice, però un vino che nella sua versione frizzante si può abbinare a tutto pasto, nella versione spumante predilige gli aperitivi, gli antipasti e gli incontri tra amici specialmente. Bene, torniamo a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di vino dell'annata 2015, ma anche di consigli per Natale. Lo stiamo facendo con Alberto Bellucco della cantina La Roccola di Cinto Euganeo, cantina che è anche agriturismo, quindi andiamo abbastanza sul sicuro. Abbiamo parlato di Prosecco, un vino che si fa non solamente sui Colli Ugani, nei Colli Ugani prende il nome di Serprino. in un menù ideale dagli antipasti si passa a primi e secondi, e anche qui si possono abbinare vini bianchi o rossi. Nei Colle Eugani quali sono le proposte dei vini bianchi e con cosa abbinarli, per esempio? Beh, sui vini bianchi, specialmente i bianchi fermi, abbiamo una vastità di scelta. Abbiamo sicuramente i vini internazionali come Chardonnay e Sauvignon, però prediligo sempre gli autoctoni. Il nostro territorio sta offrendo delle bellissime sensazioni con una nuova generazione di vini bianchi che sono i moscati secchi, il fior d'arancio secco specialmente. Il fior d'arancio, che è un moscato giallo, da noi prende la denominazione e la DOCG fior d'arancio. Questo prodotto è un bianco tradizionale, tradizionale perché non la fermentazione si va a completare, per cui il vino non è più dolce, però mantiene quelle che sono le caratteristiche organolettiche della versione dolce, per cui la sensazione dell'agrume, la sensazione dell'uva, addirittura molto della sensazione prende anche nel lato degustativo, si riesce a sentire molto bene la sensazione del vinacciolo, di quando si morde un chicco di moscato, ed è forse una delle versioni più straordinarie che abbiamo in questa zona. Con tutti questi profumi può andare bene con un primo piatto di pesce, per esempio? Sì, predilige molto il pesce, non disdegna neanche la carne. Se magari pensiamo a una pasta come possono essere le fettuccine con un ragù a carni bianche, per cui carni più leggere, sicuramente si riesce ad abbinare molto bene. E dopo anche le verdure comunque da prendere in considerazione, specialmente in questo periodo il radicchio, che è il prodotto top di stagione. Ecco, passando invece ai rossi, nel Veneto sì, Cabernet, Merlot, i classici internazionali, però va molto anche il Raboso, anche sui Colli. Sì, il Raboso che anni fa si stava un po' dimenticando, è ritornato molto nell'ottica del consumatore. Se ne fanno varie versioni di Raboso, da un Raboso secco e di struttura ai Rabosi più leggeri, più festosi, che possono essere leggermente frizzanti o anche nella versione rosata. Sono sì, indubbiamente una varietà che si presta a divertire il consumatore, perché ogni azienda ha il suo modo di vedere il Raboso e ogni zona dei Colli Eugani ha il suo modo di intenderlo. Ecco, sì, è un vino che mi fa molto pensare al Natale in realtà, però siamo già con il tempo che passa e stiamo arrivando al dolce. Sui Colli Eugani non c'è scelta, insomma, è fior d'arancio. Sì, è il principe dei Colli Eugani, il fior d'arancio. Il fior d'arancio che si può trovare in versione spumante dolce o anche passita, specialmente se si vuole abbinare a una biscotteria secca. Molto, molto interessante sta diventando anche la versione dolce ma ferma, per cui senza bollicina, però sempre dolce rispetto a quella, sì, prima, che avevamo detto che era ferma ma secca. Ecco, noi abbiamo preso come esempio i Colli Eugani, ma la stessa cosa potrebbe valere per qualsiasi altra zona del Veneto. Ci sono dai Colli Iberici, ovviamente, alle Colli di Conegliano, Valdobbiadene, dalle colline veronesi, dappertutto vi sono tradizioni vinicole che permettono di accompagnare qualsiasi menù natalizio. Una cosa invece che vale per tutti è il prezzo. Quanto spendere? Se noi andiamo, per esempio, in un supermercato, che credo sia il luogo dove più di tutti si va ad acquistare vino, oggi troviamo veramente bottiglie che vanno dall'euro e mezzo fino ai 30 euro. Oggigiorno la scelta è molto vasta e i supermercati hanno saputo vedere molto, molto bene il mercato, creando delle piccole enoteche all'interno di questi. Sicuramente c'è da capire di andare a scegliere un prodotto locale. È una marcia in più, il prodotto fa meno strada verso di noi. La fascia di prezzo è altrettanto importante. Sicuramente il produttore che esce con un prezzo iniziale minimo di dai 5 ai 6 euro è un produttore che ha spazio per la qualità in quel prezzo, e sicuramente da lì in su, ovviamente anche a seconda delle possibilità che abbiamo, troviamo vini per tutti i tipi e per tutti i gusti, ovviamente. ma al di sotto la vedo personalmente un po' difficile trovare un prodotto che sia di qualità nel presentarlo nelle nostre tavole. Però si trovano bottiglie con marchio DOC o GT anche a quelle cifre, anche i 2 euro. Sì, quello è sicuramente una cosa incresciosa nel nostro mercato, dettato un po' anche dagli alti volumi che possono fare le aziende. Le aziende medio-piccole hanno dei costi di gestione sicuramente più alti nel produrre una bottiglia rispetto magari alle cantine sociali o ai grossi imbottigliatori che fanno milioni di pezzi di quel prodotto magari, per cui diventa difficoltoso uscire per un piccolo produttore a prezzi al di sotto dei 5 euro a bottiglia. Però anche i piccoli produttori difficilmente li troveremo nei supermercati, è più facile trovarli in qualche enoteca o nelle cantine direttamente. È ancora il periodo nel quale si può, anche se uno vuole, girare per le cantine oppure nei mercatini natalizi che ci sono, probabilmente qualche produttore o mercatini degli agricoltori, qualche produttore farà delle proposte interessanti. Assolutamente. Ecco, ringraziamo Alberto, dobbiamo chiudere qui. Ricordo Alberto Bellucco della cantina La Roccola di Cinto Euganeo. Grazie a tutti, grazie a voi. Speriamo che questi consigli vi possano essere utili. Per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento con il Quadrifoglio alla prossima. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.